24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il vertice europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles. In apertura di lavori a tenere banco sono stati soprattutto la Grecia, insieme alla discussione sul rafforzamento del fondo salva stati e lo status di candidato della Serbia all'ingresso nell'Unione. Prima del summit bilaterale Monti-Merkel. Giornata di forti rialzi ieri per le borse europee, mentre c'è preoccupazione sugli ultimi dati della disoccupazione nel vecchio continente. E in Finlandia si è insediato il nuovo presidente. In apertura di questa edizione del Consiglio europeo, al via ieri sera a Bruxelles, il vertice è stato preceduto da un Eurogruppo che ha parzialmente approvato il piano di ristrutturazione del debito greco. Sarebbe stato dato dunque il via libera a 35 miliardi dei 130 del pacchetto di aiuti ellenico, necessari a finanziare gli investitori privati, mentre sarebbe stata rinviata al 9 marzo la decisione sugli altri 71 miliardi e mezzo. Sul nuovo parziale stop avrebbero inciso sia l'attesa per lo swap con le banche sui titoli greci, sia il mancato completamento da parte di Atene delle 38 azioni prioritarie. Concordate. Ora una nota preoccupante, la crisi dei conti starebbe investendo anche l'Olanda. Tagli e rigore sono in vista pure nei Paesi Bassi. Il premier Mark Rutte ha annunciato riduzioni nella spesa pubblica. Ieri bilaterale tra il presidente del Consiglio Mario Monti e la cancelliera tedesca Angela Merkel, prima del vertice, la Merkel si è complimentata con Monti per la discesa dello spread per la prima volta in sei mesi sotto i 310 punti base e del tasso di interesse sul decennale sotto il 5%. Le misure prese dai paesi stanno dando i loro frutti, siamo a un punto di svolta nella crisi, guardate l'Italia dove i tassi di interesse si sono abbassati. Lo ha affermato il presidente europeo Herman Van Rompuy, che ha ottenuto ieri sera un rinnovo di altri 2 anni nel mandato alla guida del continente. Certo, la crisi è finita, ma stiamo vedendo i frutti degli sforzi dei paesi, ha aggiunto Van Rompuy. La Repubblica Ceca non firmerà il Fiscal Compact, il nuovo trattato intergovernativo che intende rafforzare la disciplina di bilancio. Lo ha confermato il premier Petr Nekas. Abbiamo una serie di obiezioni contro e riteniamo che non ci sia piena conformità con la nostra Costituzione, ha aggiunto Nekas. Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha scritto una lettera al presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, con la quale ha messo in guardia dai crescenti rischi nell'Eurozona. Secondo quanto riporta il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, Weidmann ha proposto un ritorno alle regole di sicurezza che valevano prima dell'inizio della crisi. Il presidente della Bundesbank ha messo in guardia da una perdita di reputazione e ha sollecitato un dibattito sui rischi. Una maggiore integrazione finanziaria e di bilancio in Europa nel medio termine rafforzeranno la sostenibilità della moneta unica, ad affermarlo il Fondo Monetario Internazionale. E per il presidente della Fed Ben Bernanke, l'esposizione delle banche americane alla crisi del debito europeo è limitata. Intanto, a quanto si apprende, la Serbia avrebbe avuto il via libera per ottenere lo status di paese candidato all'ingresso in Europa, superate le ultime resistenze della Romania. Proprio Serbia e Romania hanno firmato a Bruxelles ieri un protocollo d'intesa sulla tutela delle minoranze nazionali nei rispettivi paesi. L'Europa mantiene l'accento sulla politica di sanzioni contro la Siria. Nella bozza conclusiva del summit, i leader confermano l'impegno ad aumentare ulteriormente la pressione sul regime siriano fino a quando le violenze e gli abusi dei diritti umani continueranno e invita il Consiglio a preparare ulteriori misure restrittive mirate contro il regime. Siamo ora ai mercati con Milano che ieri ha realizzato la migliore performance in Europa chiudendo la seduta con un rialzo FTSE MIB del 2,93% grazie soprattutto al rally delle banche. Chiusura positiva per le borse europee con Milano che ha realizzato la performance migliore e ha terminato la seduta con un rialzo del 2,93%. Il listino milanese è stato trainato dal rally delle banche all'indomani della maxi iniezione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, mossa che ha innescato il calo del rendimento del BTP decennale sotto la soglia del 5% per la prima volta da agosto e la discesa dello spread con il Bund tedesco verso quota 300 punti. Il titolo migliore sul FTSE MIB è stato il Banco Popolare più 10,5% che ha così recuperato le perdite tornando ai livelli di 10 giorni fa. Bene anche MPS più 5,5% in attesa del collocamento di una quota fino al 15% del capitale da parte della fondazione, ora azionista con il 49% circa. Tra i finanziari Mediolanum ha guadagnato oltre il 2% grazie ai dati positivi sulla raccolta di gennaio. La peggiore tra le big di Piazza Affari è stata A2A meno 3% che ha risentito dell'avvio del collocamento della quota detenuta dal PIC pari al 5% circa, operazione poi bloccata per le condizioni di mercato sfavorevoli e finita nel mirino della Consob. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, l'area euro sta pagando a caro prezzo la recessione in cui è ricaduta nel finale del 2011. A gennaio si sono registrati 185.000 disoccupati in più rispetto al mese precedente. Il totale è dunque salito a 16.925.000. In questo modo, ha riferito Eurostat, l'ente di statistica comunitario, il tasso di disoccupazione ha stabilito un nuovo massimo dal lancio dell'euro al 10,7%. E c'è preoccupazione sui dati dei disoccupati anche in Italia. Questa volta è più difficile delle altre volte. Il dato è in rialzo, come ormai succede spesso da mesi a questa parte, ma il numero fa impressione. 2.312.000 persone, tanti sono i disoccupati, che crescono sia tra le file degli uomini sia tra le donne. A gennaio il tasso di disoccupazione si attesta al 9,2%, due decimi di punto in più rispetto a dicembre, un punto in più su base annua. È il livello più alto dal gennaio 2004. Si tratta di stime provvisorie che difficilmente però saranno riviste alla ribalta. Basso. Da questo scenario già critico, la disoccupazione giovanile esce con le ossa rotte, superando la soglia del 31%, in crescita sia su base mensile sia anno su anno. È da settembre ormai che la fascia dei giovani tra i 15 e i 24 anni si colloca sopra quota 30%. Più o meno uno su tre di coloro che si rivolgono al mercato del lavoro non riesce a trovare un'occupazione. L'Europa non se la passa meglio. Sempre a gennaio il tasso di disoccupazione è salito al 10,7%, era al 10%. Un anno fa. Restiamo sotto la media europea, ma le misure per la crescita non sono più rinviabili. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tasso di inflazione nell'area euro dovrebbe salire al 2,7% nel mese di febbraio rispetto al 2,6% di gennaio, a sostenerlo sempre Eurostat. La Gran Bretagna ha ritirato tutto il personale diplomatico dalla Siria e ha sospeso ogni attività all'ambasciata per motivi di sicurezza. Non vengono però al momento interrotti i rapporti diplomatici tra i due paesi. Intanto non è ancora chiara la sorte della giornalista francese Edith Bouvier, ferita ad Homs. Si trovava mercoledì in un luogo sicuro, ha riferito ieri il presidente del Consiglio nazionale siriano Burhan Ghalioun a Parigi, ma non posso assicurare che sia così anche oggi, ha aggiunto. E ci trasferiamo in Finlandia, dove si è insediato il nuovo presidente Sauli Niinisto. La vittoria era arrivata poco meno di un mese fa. Oggi il conservatore Sauli Niinisto è ufficialmente il nuovo presidente finlandese. 63 anni, Niinisto è il primo capo dello Stato conservatore dal 1956, una carica rimasta appannaggio dei socialdemocratici per 30 anni. Prende il posto di Tarja Halonen, prima donna capo dello Stato a Helsinki, molto amata dai 4 milioni e mezzo di finlandesi e che però non ha potuto ricandidarsi avendo già completato due mandati. Ex ministro delle Finanze, il presidente eletto è un esponente di spicco del partito di centrodestra, la Coalizione Nazionale, lo stesso partito del primo ministro, Jyrki Katainen, che con i suoi 40 anni è il più giovane capo di governo dell'Unione Europea. I conservatori controllano ora governo e presidenza, conservatori sì, ed europeisti quanto basta. Ieri il Parlamento di Helsinki ha approvato il secondo piano di aiuti a favore della Grecia, una decisione non facile che ha messo a dura prova l'esecutivo, minacciato da una mozione di sfiducia presentata da due partiti di opposizione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudiamo con una notizia di ambiente. Rimane fuori controllo la situazione dell'inquinamento a Madrid, in Spagna, dove dall'inizio dell'anno sono già stati superati del 26% i limiti europei. Lo riferisce nella sua edizione il quotidiano El País. Era questa l'ultima notizia, è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.